100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il tema della solidità delle banche e in particolare il livello imponente dei crediti in sofferenza, ovvero quelli il cui recupero per gli istituti è problematico, continua ad attirare l'attenzione sul fronte economico-finanziario. Una notizia incoraggiante è arrivata ieri da uno studio realizzato dall'Associazione Bancaria e dalla CERVED. Questo studio evidenzia come stia proseguendo il calo delle nuove sofferenze bancarie, destinate entro il prossimo anno a ritornare ai livelli praticamente prima della crisi. Il tasso che misura la percentuale dei nuovi prestiti che vanno in sofferenza è destinato infatti a scendere dal 3,7% del 2015 al 3% del 2016 e poi ancora giù nel 2017. In particolare la riduzione sarà più accentuata per le imprese di minore dimensione, che in genere sono più rischiose rispetto alle grandi, ma anche le medie e le grandi imprese avranno tassi in riduzione. Peraltro il tema del recupero dei crediti in sofferenza è stato ieri affrontato anche dal ministro dell'economia Padoan, intervenuto in audizione al Senato. Padoan ha segnalato come le modifiche alle regole sulle procedure concorsuali dal 2015 in poi hanno reso più rapido il recupero dei crediti, con un accorciamento dei tempi stimato in circa 3 anni. Peraltro ulteriori miglioramenti sono attesi proprio grazie alle misure contenute nel decreto legge entrato in vigore ieri, decreto che ridurrà sia la generazione di nuove sofferenze sia il tempo di recupero su quelle già in essere. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il governo corre ai ripari dopo le ripetute denunce sugli abusi dei voucher, il buono che garantisce un compenso lordo di 10 euro che diventano 7,50 netti per il lavoratore. È la forma di pagamento più utilizzata per i lavori cosiddetti accessori, per lo più nel settore del commercio e del turismo. Le stime parlano di una quota di personale interessato oscillante tra l'1,9 e il 2,7% del totale della forza lavoro, ma da più parti si è segnalato un abuso che ha trasformato lavori veri in finte prestazioni saltuarie. Così il governo, con un decreto legislativo, vuole cambiare la procedura di applicazione, rendendo di fatto completamente tracciabile il voucher. Finora infatti la comunicazione poteva essere fatta entro i 30 giorni dalla data di impegno del lavoratore, d'ora in poi invece il committente, vale a dire l'imprenditore o il professionista, almeno 60 minuti prima dall'inizio della prestazione lavorativa, con un SMS o con la posta elettronica, dovrà comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo e la durata dell'impiego accessorio. In caso di violazione scatteranno sanzioni amministrative che oscillano da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui non sia stata fatta la comunicazione. È stato stimato che ad oggi solo il 5% dei voucher è risultato non riscosso, ma anche che il personale che aveva contratto di lavoro dipendente o parasubordinato nei 3 o 6 mesi precedenti l'impiego dei voucher era oscillante intorno al 10%. Non sono percentuali altissime, ma è bene spegnere l'incendio prima che si propaghi troppo, altrimenti si rischia di demonizzare uno strumento che ha una sua efficacia proprio nell'emersione dal lavoro nero di quella fascia consistente di impieghi di fatto sommersi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.